Moi, Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Buonasera a tutti da Gegè Telesforo, siete in contatto con il Soundcheck, la prova del suono di Radio 24, appuntamento numero 172 che oggi prevede la presenza di un mio carissimo amico, una persona alla quale sono molto affezionato da tanto tempo, abbiamo collaborato insieme anche per programmi televisivi, un uomo che scrive da sempre, appassionato di musica e di tecnologia. Vado a introdurvi con grande piacere il mio amico Ernesto Assante, che si è materializzato da appassionato di tecnologia utilizzando forse il teletrasporto. Il teletrasporto, esatto, che è la cosa che spero si inventi più rapidamente possibile, perché la vita di tutti cambierebbe molto in positivo. Ernesto, sono felicissimo di incontrarti, felicissimo di ospitarti su Radio 24 per parlare di musica e anche di tecnologia, perché sono cambiati un po' di cose. Noi lo possiamo dire, siamo fortunati perché apparteniamo a una generazione che ha vissuto il cambiamento, non solo nella musica, negli stili, ma proprio nella approccio con la musica e con la fruizione con la musica. Come ti senti? Ti senti anziano? Guarda, devo dire che sono piacevolmente anziano, nel senso che questo passaggio dall'analogico, dal vinile, anzi, se vogliamo ricordare quello che facciamo io e te, dal mangiadischi, cioè ancora più analogico di così non c'è, a oggi mi sembra fantastico, perché da buon appassionato di musica l'idea di avere in tasca l'infinito scibile musicale, poter ascoltare ogni cosa che voglio in qualsiasi momento, mi sembra totalmente fantastico. È fantastico, ma non hai nostalgia per esempio per il profumo delle copertine del vinile? Non compro CD, compro dischi in vinile, compro CD solo se costretto dal fatto che manca l'edizione in vinile. Allora, conservo dischi in vinile con molto piacere. Anch'io, è solo che ci serve spazio e oramai credo che la tua discoteca, la tua libreria abbia preso tutte le pareti. Esatto. Allora, oggi parleremo con Ernesto di musica, ascolteremo musica, parleremo di tecnologia, ma una cosa che faccio sempre è chiedere da dove viene la tua passione per la musica. Lo chiedo agli artisti, ai compositori, e quindi lo voglio chiedere a una delle firme importanti del giornalismo musicale ormai da quanti anni? 35 anni? 35 anni, esatto. Guarda, i due primi ricordi che ho in assoluto sono uno molto, come dire, classicamente sentimentale. Mio padre amava moltissimo il jazz e quindi a casa ricordo il giorno che comprò il giradischi nuovo, quello con lo stereo per la prima volta, che arrivava lo stereo a casa. Prima avevamo un piccolo monoblocco nel senso pieno, che si apriva lo sportellone sopra, si metteva il disco, sotto c'era la radio, dal mono si passò allo stereo e mi fece sentire Louis Armstrong, un magnifico album con i suoi Hot 7, e quindi quello, devo dire che una delle cose che mi è piaciuto di più era la musica che mi faceva ascoltare mio padre. D'altro canto voglio dire che una delle cose più belle che ho fatto nella vita è stata ballare con Rita Pavone. Avevo 6 anni, venne a cantare al Cinema Maestoso, mia madre mi portò a vedere Rita Pavone, Rita Pavone chiamava i bimbi a ballare sul palco, io andai e da quel momento capì che quello era quello che volevo fare nella vita: ascoltare musica, essere in mezzo alla musica, divertirmi con la musica e nient'altro. E quindi Rita Pavone ti ha portato già in un versante più pop e rock and roll, perché sì, te sei, hai un'anima rock. Io ho un'anima rock, devo dire che vedere Woodstock al cinema mi ha cambiato letteralmente la vita. Ho pensato che non c'era musica più bella, più importante, più in grado di cambiare la vita della gente di quella, e quindi da quel lato mi sono orientato. Però come tu ben sai, io ascolto veramente tutto, quindi grande jazz, grande R&B, grande reggae, insomma ascolto tutto, la musica è bella e basta. E quando hai iniziato a scrivere di musica? Ho iniziato nel 77, in realtà ho iniziato prima, io l'estate andavo a Procida, la mia famiglia è procidana, Assante è un cognome procidano, con degli amici lì, peraltro due, uno si chiama Mario Albano e lavora nelle televisioni private di Napoli, lavora ancora, l'altro era addirittura uno dei più noti attori italiani, napoletani, Silvio Orlando, con il quale in realtà ci scambiavamo degli articoli scritti a penna, a mano, loro a Napoli, io a Roma, ci mandavamo, cioè facevamo dei giornaletti tra di noi. Però la prima volta veramente ho scritto per il Quotidiano dei Lavoratori, un quotidiano che usciva negli anni 70, e credo che il primo pezzo fu un pezzo su un qualche gruppo punk che era arrivato nel 77. Eh sì, perché hai vissuto l'evoluzione della musica, appassionato di rock and roll e di jazz, quindi dal punk alla musica di oggi, e ne parleremo con Ernesto Assante in questo questo appuntamento del soundcheck. Passiamo alla musica, ti faccio ascoltare la voce di Algebra Blessed, un nome che è tutto un programma per questa cantante vocalist americana che coniuga con passione jazz e R&B. L'abbiamo scoperta nelle produzioni discografiche di Esperanza Spalding. Questo è il suo nuovissimo singolo, si intitola Nobody But You, qui al soundcheck di Radio 24. Shit, I don't want nobody but you. Don't want nobody touching me, baby. Don't want nobody kissing me, baby. Don't want nobody loving me, baby. But you, but you. La voce, il sound di Algebra Blessed al soundcheck di Radio 24 con nostro ospite Ernesto Assante, che fa coppia fissa anche con un altro signore che vorrei salutare, un veterano del giornalismo musicale, il nostro amico Gino Castaldo. Quindi una bella accoppiata con Gino. Direi di sì, un caso del tutto fortunato. Lavoriamo nello stesso giornale, facendo lo stesso lavoro, cioè entrambi scrivendo di musica, e siamo i migliori amici. Che si vuole di più della vita? Eh sì, allora noi oggi vorrei parlare con te di tecnologia. La settimana scorsa con il mio redattore Francesco Tromba abbiamo raccontato di due portali importanti per i nuovi artisti, che sono SoundCloud e Bandcamp, che danno la possibilità ai giovanissimi di esporre il loro materiale artistico bypassando la distribuzione delle multinazionali e delle etichette indipendenti. Una volta però noi compravamo a scatola chiusa le produzioni della Stax Records, della Motown, della Blue Note. Oggi invece gli appassionati di musica come devono cercare la qualità? Guarda, hai toccato il tasto dolente. In questo gran mare di musica che oggi abbiamo a disposizione, dicevo, la gioia di poter ascoltare qualsiasi cosa in qualsiasi momento per un'appassionata inarrivabile, il vero problema è capire dove. La ricerca è complicata, perché mentre noi eravamo abituati a leggere i giornali, si compravano le riviste straniere, da Rolling Stone a Down Beat, insomma ti fidavi dei critici che ti consigliavano un album o un altro. Adesso i giornali non fanno più assolutamente testo, bisogna andare sul web, ma sul web i blog sono un'infinità, quindi capire chi è quello di cui ti devi fidare è piuttosto complicato. Allora devi affidarti alla fortuna e al gioco dell'oca, ovvero che, come sai, molti siti, i siti migliori hanno se ti piace questo ascolta anche questo. Hanno il tempo, ti danno modo di partire da una cosa che tu conosci, mettiamo i Beatles, e ti mettono accanto delle cose diverse da ascoltare, magari nuove, andare per tentativi. Però questo è una cosa buona, perché il difetto grande della ascolto negli ultimi anni è stato che la gente ha perso la curiosità, cioè si sentono le stesse 40 canzoni, più o meno sono quelle che mandano le radio, e poco si scopre di quello che c'è altrove. Sviluppare un po' la curiosità, andare ad ascoltare cose che non si ascoltano sempre. Prima c'erano i club dove andavamo io e te, adesso non ci sono nemmeno quelli. Insomma, il web ha di buono che si può andare con il gioco dell'oca, si sposta da una canzone all'altra finché non si trovano le cose che piacciono e che vanno conservate. Quindi possiamo scoprire certa musica un po' come succedeva quando noi eravamo ragazzini con il passaparola, perché la qualità funziona con il network di strada, così come lo definiva un mio amico. Certa musica, la qualità, dalla musica classica al jazz alla world music, la scopri perché c'è sempre qualcuno che te la fa conoscere. Esatto, ma il passaparola secondo me funziona moltissimo. Pensa alle cose che ci siamo scambiati di te nel corso della vita, alle cose che io non conoscevo e che mi hai fatto sentire, o che al contrario è successo tra me e te. Penso che sia in assoluto il sistema migliore. Allora vorrei presentare agli amici di Radio 24 un artista che ho scoperto girovagando per Bandcamp, un polistrumentista americano che adesso è approdato a un'etichetta importante indipendente come quella guidata da Giles Peterson, che è la Brownswood. Questo signore si chiama Dix Duke, ha registrato vari album. La cosa bella del nuovo approccio anche con la discografia, che poi non è più discografia, con la musica in digitale di questi signori, è che producono brani che hanno anche una durata minima. Una volta si ascoltavano dei polpettoni di 6-7 minuti, adesso invece su Bandcamp troverete quasi delle pennellate di musica, degli schizzi come questo di Dix Duke che ascoltiamo in Something in My Soul qui al soundcheck di Radio 24. Disturbing my pursuit of all perfection. Something in my Soundcheck, il suono della musica. Ernesto Assante, ospite del Soundcheck di Radio 24. Parliamo di musica e parliamo di tecnologia. Sei sempre stato all'avanguardia in fatto di tecnologia, tant'è vero che oggi nei tuoi articoli parli di musica, ma molto spesso delle novità tecnologiche in arrivo. Che cosa sta succedendo per quel che riguarda la musica? Cioè, quanto tempo vivrà ancora il CD? Il CD secondo me avrà una vita relativa, ce l'ha ancora perché molti di noi ascoltano la musica in macchina e gran parte delle automobili non hanno ancora i collegamenti per i lettori MP3 o il collegamento diretto ai cloud, ma accadrà anche quello, quindi pian piano smetteremo di usarli anche nelle macchine e di conseguenza li avremo sempre di meno. Ma la vera novità, che penso che sia una buona notizia per tutti quanti, è che sta tornando l'alta fedeltà, cioè mentre i lettori MP3 ci hanno portato ad ascoltare la musica in qualità diciamo mediocre negli ultimi anni, pian piano le aziende, i musicisti, pensa al progetto Pono di Neil Young, stanno tutti cercando di riportare l'alta fedeltà ad essere una cosa importante per l'ascolto. La seconda cosa penso che aiuti il fatto che l'alta fedeltà torni è cambiare l'ascolto, cioè noi la musica non la ascoltiamo più, la sentiamo che è diverso, c'entra da un orecchio, cioè c'è dall'altro mentre facciamo altre cose. Ascoltare significa, come facevamo io e te, come facciamo ancora io e te, mettersi davanti al giradischi o al lettore MP3 o al lettore CD e ascoltare per 20 minuti, mezz'ora un disco per bene, cioè sentendo esattamente cosa diamine sta facendo il musicista. La qualità dell'ascolto nei lettori MP3 migliorata consentirà forse di fermarsi ogni tanto e provare ad ascoltare la musica meglio. Eh sì, una volta compravamo il nostro vinile e per 2 mesi spolpavamo tutte le tracce cercando di memorizzare tutti i passaggi, gli stacchi e imparare tutto quello che facevano i musicisti. Adesso c'è talmente tanta musica, non si ha neanche il tempo di capire chi la sta suonando. E certamente è un danno però per gli autori, per i compositori, è proprio il rapporto con la discografia, il fatto di non andare più nei negozi di dischi, di avere il tempo di andarsi a cercare gli artisti, di avere tanta musica. Come guadagneremo noi che la musica la produciamo? Guarda, credo che quello è il problema più grande, ma anche la cosa più creativa che in questo momento mette alla prova i musicisti e chi vuole guadagnare con lui, chi vuole lavorare con la musica. Si lavorava con i dischi perché erano un supporto e si vendeva il supporto, non si vendeva la musica, si vendeva la plastica che conteneva la musica. Adesso la plastica non c'è più, si torna ad essere musicisti a tutto tondo, cioè il tuo primo interesse è quello di far sentire la tua musica dal vivo in giro, e sarà così per un po' di anni, nel senso che l'assenza di supporto porterà i musicisti in strada a suonare ancora di più con maggior frequenza, il che secondo me non è un male perché la gente si riabituerà a vedere i concerti invece di guardare i video in televisione. Quindi ragazzi, stampatevi la vostra musica, ve la portate ai concerti perché è l'unica location dove probabilmente riuscirete a vendere il vostro materiale fisico. Allora, torniamo alla musica, eccolo qui un veterano che invece continua a fare la sua carriera, centinaia di concerti ogni anno, tra l'altro prende tutto lui perché fa i concerti da solo con la sua voce, stiamo parlando del meraviglioso Bobby McFerrin, ultimo album dedicato agli spiritual che era poi la passione del suo papà, anche lui cantante del genere di riferimento. Qui Bobby McFerrin incontra Esperanza Spalding in un brano tradizionale del genere intitolato Every Time. La voce del maestro Bobby McFerrin in dolce compagnia, quella di Esperanza Spalding, bellissima ragazza, contrabbassista, autrice, compositrice, arrangiatrice, producer, vincitrice del Grammy Award, e anche una ragazza meravigliosa sul palco. Sì, assolutamente uno spettacolo da vedere dal vivo. Esperanza Spalding ha avuto la possibilità di completare gli studi alla Berklee School of Music di Boston con un full credit, cosa che viene assegnata a pochissimi giovani musicisti, quindi era spesata di tutto. Però ha ripagato perché adesso insegna alla Berklee School of Music, ha vinto il Grammy Award e insomma è una bella soddisfazione anche per lei e per la famiglia. Come vedi c'è ancora possibilità di fare delle cose singolari perché il talento è quello che conta. In realtà noi siamo circondati da un sacco di musica prodotta in serie che confondiamo col talento. Ci sono bravi intrattenitori, il mondo ne è pieno, ma poi i musicisti veri restano come sempre pochi. Ecco, tu hai mai suonato uno strumento? Sì, io strimpello tutto. Ho studiato il flauto traverso con Eugenio Colombo qua a Roma. Suono la chitarra molto male, suono le tastiere molto male, tengo il tempo sulla batteria per l'essenziale. E, insomma, me la cavo malissimo con tutto. Allora, parliamo anche della comunicazione, come comunicare la musica. Tu in questo momento sei impegnato su Radio Capital anche con un bellissimo programma con sonorità più rock del mio, fortunatamente, insieme a Gino Castaldo. Quanto è importante oggi la radio per la diffusione della musica? Quanto è importante comunicare emozioni attraverso la radio? Io ho cominciato con la radio nel 75 in una radio privata qui a Roma, per cui figurati, ho fatto Stereonotte per tanti anni. L'idea di io sono come te un po', non so cosa tu fai, ma io sono certo che tutti quelli che salgono in macchina con me, quando non faccio la radio, sono costretti a sentire i dischi che io gli metto su, perché il godimento vero dell'ascoltare musica è ascoltarla con gli altri, non ascoltarla da solo. È un piacere certo, ma poi l'idea è che se a me piace una cosa voglio che gli altri la amino allo stesso modo, e quindi costringo gli altri ad ascoltarla. La radio è uno strumento essenziale da questo punto di vista. Il vero peccato, come dicevamo prima, è che troppe radio mandano solo poche canzoni, sempre le stesse, e non è più il gusto della sorpresa. È bello sentire programmi come il tuo, perché ascolti cose che non si ascoltano normalmente e che magari non conosci, e che dici: diamine, Gegè mi ha fatto sentire una cosa che vale la pena e che da domani ascolterò. Scusami, però perché succede questo ancora oggi? Abbiamo detto che la discografia ha dei problemi, non si vendono più dischi, però in alcune radio si continua a proporre il successo del momento, il brano presente in classifica. Perché? Perché hanno, come dire, dei meccanismi pubblicitari che gli permettono di fare questo, ma cambierà. Così come sta cambiando il mondo dell'informazione, i giornali che si sposta sulla rete, anche le radio si spostano sulla rete. E le radio sulla rete significa radio personalizzate, significa radio discoperte. Pensa a quello che stanno facendo Deezer e Spotify, al successo che hanno. Insomma, secondo me le cose miglioreranno anche da questo punto di vista. Allora, continuiamo ad ascoltare la famiglia McFerrin, perché Bobby McFerrin ha un figlio, anche lui è un cantante, certo non bravo come il papà, soprattutto è un bravo producer e fa molto bene il beatbox, quindi emula la batteria e gli strumenti a percussione con la voce. Ha prodotto un disco con vari colleghi, l'album si intitola Early Riser, il brano è Floragia. Qui è Taylor McFerrin al soundcheck di Radio 24. Both understand that we are the reason for one another. Seasons will be new, and we'll both find ourselves so far apart. Soundcheck, yes. Il suono della musica. Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us, building big castles we own high. Just the two of us, you and I. E volevo omaggiare il mio amico Ernesto Assante, ospite qui su Radio 24 del nostro soundcheck con Just the Two of Us. Ecco, praticamente solo noi insieme, una composizione meravigliosa di Bill Withers, presente insieme al tenor sax di Grover Washington Jr. in questo appuntamento insieme al mio amico Ernesto Assante. Io non ho mai raccontato un aneddoto che abbiamo vissuto tanti anni fa insieme, perché abbiamo collaborato anche per alcune produzioni televisive, e diversi anni fa, stiamo parlando credo dei primi anni 90, ci spostammo con vari amici per realizzare un appuntamento a Sanremo in occasione delle selezioni dei giovanissimi di Sanremo di quell'edizione. Adesso non ricordo esattamente che anno fosse, però abbiamo vissuto un'esperienza particolare, perché per la prima volta abbiamo incontrato sul palco lì a Sanremo due artisti che poi sono diventati importantissimi. La prima esibizione dal vivo di Andrea Bocelli, e anche qui c'è un aneddoto, e poi Laura Pausini, che partecipava a quella selezione per poi diventare la cantante che è oggi. Ma è successo qualcosa? Cosa successe? Succede che in questo concorso a un certo punto il produttore della manifestazione arriva da noi, perché aveva cantato Giola Pausini, stava per cantare un'altra concorrente. Sì, la Pausini aveva avuto un successo di pubblico incredibile, applausi, tutti in piedi, anche noi. Certo. E che succede? Che deve cantare un'altra ragazza, di cui non ricordo il nome, quindi non possiamo nemmeno offendere nessuno, ma il produttore si avvicina a me, a Paolo e a Gegè e dice: guardate, questa ragazza deve vincere. E noi diciamo: ma perché deve vincere? Guardate, è impossibile che non vinca, perché c'è una raccomandazione dall'ottavo piano di Viale Mazzini. Ma noi ci siamo guardati e abbiamo detto: ma non esiste l'ottavo piano di Viale Mazzini. Anzi, per essere precisi, al settimo piano c'erano gli uffici dei grandi dirigenti, all'ottavo c'era il bar, per cui noi dire: ma sarà stata raccomandata dal barista di Viale Mazzini. Fatto sta che alla fine questo diceva: non rovinatemi, vi prego, vi prego. E uno dei nostri amici nella giuria girò la paletta per farle arrivare pari merito, perché proprio farla vincere era obiettivamente impossibile, tra i fischi dell'intera platea, perché chiaramente tutti dicevano: ma non è possibile una cosa del genere. E chiaramente ci fu la rissa in scena, insomma un po' di divertimento attorno al giurato che aveva votato a favore della giovane cantante. Bene, e se questa cosa l'abbiamo raccontata è perché possiamo raccontarla, perché abbiamo un rapporto di amicizia sia con Andrea che con Laura. Ne abbiamo anche parlato con Laura tempo fa all'Auditorium Parco della Musica, dove tu la celebravi, no? E poi insomma sono due artisti importanti oggi in tutto il mondo. Allora, ancora musica, la voce di Jill Scott incontra quella di Anthony Hamilton in So In Love. I'm glad this week is over, I need to get away. Go home and throw my clothes on, come get you right away. Can't wait to see you looking lovely, I hope you're thinking of me. Cause all I want is time with you, and don't need nothing more. So long, so long, so long, so long, so long, so long, so long. Sound check. Il suono della musica. Come through the same way you got them, you got me too. Now look at our lives, it's so colorful, a wonderful spectrum, not one tone dull, full of excitement and not one love. See, we had an understanding, oh yes we did. I'm bringing it back, I'm putting in my bid. Have a couple of kids and have. Si intitola Getting Up, il singolo di Q-Tip ormai di qualche anno fa. Q-Tip è uno dei miei rapper preferiti, e sì, perché la poesia di oggi, la poesia contemporanea, l'abilità nello scrivere testi e di pronunciarli ritmicamente di questi ragazzi della nuova generazione è qualcosa di eccezionale. Q-Tip al soundcheck di Radio 24 in questa puntata con nostro ospite Ernesto Assante. Lo abbiamo detto, una firma famosa del giornalismo musicale in Italia, grande appassionato di tecnologia. Ma c'è una cosa che io voglio chiederti: una volta, ti sto parlando di 20 anni fa, quando si leggevano le recensioni che ne so, dei concerti o dei dischi, il giornalista faceva la critica. Oggi mi sembra che non esista più la critica musicale. Perché? Guarda, tendenzialmente non esiste più perché lo spazio che danno i grandi giornali alla musica è sempre più piccolo. Devo dire, i quotidiani danno pochissimo spazio agli spettacoli in generale. Una ventina d'anni fa Repubblica aveva 6-7 pagine di spettacoli, oggi ne ha una e mezza, per cui come puoi immaginare la difficoltà di scrivere, soprattutto in musica, è molto grande. Poi perché in generale la critica sembra ai giornali sempre meno interessante, cioè se ti interessa la notizia, dimmi, parlami del disco, oppure intervistami il cantante, ma poi del tuo parere su com'è il disco è relativamente interessante. La critica si è spostata, però c'è, esiste adesso il web. In realtà la cosa bella è che tu sul web trovi moltissima critica musicale, molte storie, molte analisi, puoi leggere un sacco di cose anche molto belle, spesso da firme nuove, nuovissime, da ragazzini che fanno quello che facevamo io e te 30 anni fa, ma il bello è che discuti con i lettori, nel senso che se io scrivo questo disco, adesso non è proprio quello che faccio normalmente, ma diciamo questo disco non mi piace, subito sotto c'è qualcuno che dice imbecille, perché non ti piace? Quindi partono discussioni notevoli, per cui non sei più il critico distante, lontano, con la tua verità che domina, come dire, la scena dalla radio o dai giornali, è un dibattito, un dialogo continuo con chi legge, con chi ascolta e soprattutto con chi può provare che quello che tu hai detto un secondo dopo, ascoltando il brano perché online c'è, quello che hai detto è vero. Allora, torniamo alla musica, ti faccio ascoltare, sicuramente hai già scoperto la nuova produzione di Prince. Ti piace Prince? Mi piace moltissimo, mi è sempre piaciuto. Eccolo qui, Prince al soundcheck con You Know. Put your hands together. You know, like this. Sweet. Which one's which? For the record, let me state that I never had a reason to break contractual endeavor or serve a relationship with anyone. I pleasure, pleasure. Soundcheck, il suono della musica. Parliamo di tecnologia con il nostro Ernesto Assante, qui alla prova del suono di Radio 24. Sì, tu, scrivendo articoli che anticipano le uscite dei nuovi prodotti, sicuramente hai anche la possibilità di poter provare il prodotto prima della distribuzione. Adesso so che sta per arrivare l'iWatch. Che cosa ha di speciale l'iWatch? Allora, sono andato a San Francisco e l'ho potuto, come dire, toccare e vedere. Secondo me è una macchina interessante perché mette insieme il lettore MP3 al polso, l'orologio che tutti usiamo e quindi comunque è comodo, con le app, quindi se all'inizio però forse lo troveremo un gadget relativamente utile, così come è successo per gli smartphone, più le app si moltiplicheranno e aggiungeranno funzioni, più diventerà un oggetto che probabilmente non potremo fare a meno di usare, perché appunto comodo e personale, non ce l'ho in tasca, non lo devo perdere, è al polso, ce l'ho sempre addosso, è un wearable, tecnologie indossabili saranno probabilmente le tecnologie di domani. Ma quanto è piccolo? Cioè, è facile muoversi fra le app, digitare? Direi di sì, anche perché ha una rondellina laterale che sembra quella dell'orologio per mettere l'orario, che in realtà ti consente di girare tra le app, cliccare e farle partire, quindi è abbastanza piccolo e abbastanza comodo. Sai il costo? Credo che costi attorno ai 350-400 euro, cioè il prezzo in dollari è quello, più o meno dovrebbe essere. È già in distribuzione? No, ancora no, uscirà nel 2015. 2015, altre novità dal mondo della tecnologia, magari legata alla musica? Io sono un appassionato di questi speaker piccolini che si portano in giro, che hanno una grande qualità, per cui ci sono alcune macchine deliziose, sia quelle della Logic sia quelle della Bose, che sono piccole, compatte, ma non sono potentissimo, per cui grande volume per sentire i pezzi rock e sfondare le orecchie dei vicini. Consigliami un artista della nuova generazione da tenere d'occhio. Guarda, io sono un grande appassionato di cantautori di questa generazione moderna di cantautori, e ce ne sono alcuni che sono veramente molto bravi. Uno che ha un nome stranissimo, si chiama The Tallest Man on Earth, ovvero l'uomo più alto della terra, il suo nome d'arte, e secondo me ha fatto dei dischi che varrebbe la pena ascoltare. Ma è italiano? No, in americano. Ok, allora, no, perché infatti mi sembra italiana. Allora, c'è una band italiana che mi piace moltissimo, che hanno un nome ridicolo inglese, si chiama The Fucking Shalalalas, sono un gruppo di Roma, se vi capita di vederli. Ma il cantante canta con l'inflessione quella di oggi? No, per fortuna, perché no. Cantano tutti così adesso, perché si rifanno come suono agli anni 70 e poi c'è amore, dai, perché non vieni qua? È verissimo, che è una roba che speriamo finisca molto rapidamente. Non si sa da dove viene questa moda. No, direi di no, probabilmente è una via di mezzo tra il gergo dei rapper e il cantante nazionale tradizionale. Allora, facciamo un ritorno al passato ma anche al futuro. L'organista Booker T. Jones, ovvero Booker T, lo ricordi con gli MG, torna con la Stax, il brano si intitola Impala, la partecipazione di Sheila Escovedo e del maestro conghero Poncho Sanchez. Ernesto Assante, ospite del Soundcheck, il sound dell'organo di Booker T, come dicevamo, in compagnia di Poncho Sanchez e della bellissima Sheila E. Voglio approfittarne, faccio io il ruolo del conduttore per qualche istante. Figurati. Ti faccio io una domanda. Essendo anche tu un appassionato di musica e di tecnologie, per forza di cose, quanto la tecnologia ha cambiato il tuo lavoro di musicista? Perché in realtà è cambiato molto l'ascolto per noi gente normale, ma per chi la fa anche è cambiato tutto in realtà. Beh, ha semplificato il lavoro sicuramente, perché una volta lavoravamo, per dire, in studio di registrazione sui banchi analogici con il nastro a 24 piste, che quindi aveva un potenziale limitato, e l'uomo, l'ingegnere del suono, doveva anche inventarsi dei barbatrucchi magari per fare le sovraincisioni, gli editing e via dicendo. Oggi invece il computer ti permette di fare di tutto, anche di far cantare una capra perfettamente intonata, quindi a volte non si riesce a capire quanto sia forte il talento di un artista, però le produzioni poi alla fine vengono sempre bene. Questo però ti consente anche di fare cose che musicalmente prima non potevi fare, cioè tu hai uno studio, come dire, dove puoi fare della roba incredibile anche da solo. Ecco, ti permette infatti di poter intanto realizzare i tuoi demo da soli con un software semplicissimo, quelli in dotazione già ai computer, ai Mac e ai PC, e poi di poter creare il tuo suono e il tuo mondo, tant'è vero che quelli che hanno in qualche modo che si sono evoluti da un punto di vista discografico e tecnicamente sono i disc jockey, che oggi fanno le loro produzioni e forse vendono più degli artisti e dei compositori. Il che la dice lunga su come la musica viene fatta oggi, però. Assolutamente sì. Poi invece ci sono dei musicisti che suonano bene tutti gli strumenti e hanno la possibilità anche di poter noleggiare studi importanti, per esempio a Los Angeles, come il caso di questo signore, sassofonista, bassista elettrico, molto richiesto, si chiama Gerald Albright, che poi, avendo anche tanti amici, invita i migliori sidemen di Los Angeles in studio e realizza così l'album nuovo. Il brano si intitola Sparkle in Your Eyes. Gerald Albright al soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Non mi annoia mai questo signore, sì, lo diciamo sempre, Robert Glasper è uno degli artisti di riferimento per il jazz contemporaneo e l'R&B proprio per questa passione. Viene dalla musica classica, ha studiato pianoforte classico, ha suonato con i più grandi musicisti di jazz dell'old school, per poi creare questo sound molto personale con i suoi experiment, e qui la partecipazione di Eric Robertson in Big Girl Body, brano che troverete nella Black Radio edizione seconda, e il sound del sax contralto con tanto di harmonizer suonato dal bravissimo Casey Benjamin. Il tutto al soundcheck di Radio 24 con Ernesto Assante, nostro ospite. Insomma, c'è tanta musica, ma c'è anche tanta gente che continua a scaricare abusivamente, bypassando iTunes e i siti che ci danno la possibilità di poter acquistare legalmente la musica, creando un danno agli artisti, alle case discografiche, agli autori e ai compositori. Però devo dire che forse una bella botta adesso ce l'hanno data anche gli YouTube, perché stringendo questo accordo, come abbiamo già raccontato, con iTunes, tutti i possessori dell'account di iTunes si sono ritrovati il nuovo album degli U2, hanno praticamente dato legalmente una botta definitiva alla discografia? Secondo me sì, nel senso che il modello di business che propongono è completamente diverso. Significa che se GG Telesforo vuole fare un nuovo album, la prossima volta invece di andare a cercare una casa discografica va a cercare un finanziatore, che è diverso. Cioè magari anche il fornaio vicino casa dice: caro fornaio, se ti interessa sponsorizzare il mio album, pagami il costo e poi tu lo regali ai tuoi clienti quando entrano. Progetto che, come dire, ha sicuramente dei risvolti interessanti, se pensi a come sono nate moltissime iniziative creative negli anni 60 o 70, più o meno così, quando l'industria discografica era ai suoi albori, più o meno così è nata, però d'altro canto è una roba che fa correre molti rischi agli artisti più piccoli, perché per uno sconosciuto è ben difficile trovare chi ti finanzia e ti permette poi di regalare l'album in giro. Insomma, è una medaglia con due facce molto distinte, vedremo come andrà a finire. Io con altri colleghi del jazz avevo fatto questa riflessione, cioè se gli U2 hanno prodotto il nuovo disco e lo hanno regalato a tutti gli utenti di iTunes, allora noi che cosa possiamo fare? Non registrare più nulla. Facciamo prima, dici direttamente. Facciamo prima, certamente. No, io trovo che in parte la musica gratis sia oramai quasi inevitabile, se pensi a come noi tutti utilizziamo YouTube e quindi al fatto che più o meno lì si trova tutto, sempre, costantemente, senza pagare. Però è anche vero che ci sono dei meccanismi che con questo sistema, cioè con il finanziamento della pubblicità, campano da molti anni e molto bene. L'intero universo delle radio, l'intero universo delle televisioni, dimostrano che si può fare, se ci si costruisce però una struttura che lavora apposta per quello, cioè che rimedia i soldi dalla pubblicità e che permette quindi poi alla musica di circolare gratuitamente. Potrebbe essere un'ipotesi ragionevole nel futuro che ci organizzassimo anche io e te. Apriamo una piccola etichetta che campa così, cioè che ha introiti pubblicitari ma produce della buona musica che distribuisce gratuitamente. E avere un finanziatore. E il pubblicitario, diciamo che trovare, come dire, se noi raggiungiamo un pubblico io e te in particolare. No, perché in qualche modo bisogna pure guadagnare. Ma per forza di cose, senza soldi non si va da nessuno. Vabbè, meno male che la musica riusciamo a farla dal vivo e ancora qualcuno ci chiama a fare i concerti in Italia, in giro per il mondo. Gregory Porter lo conosciamo benissimo, e adesso cosa succede a Gregory Porter? Che avendo registrato prima del successo che ha ottenuto con le sue pubblicazioni anche per la Blue Note e quindi la vittoria del Grammy Award, aveva registrato con amici cose minori e quindi si ritrova con nuovi album che poi hanno recuperato il vecchio materiale. E quello che è successo adesso a Gregory Porter, Issues of Life, brano scritto da Zack Major per il suo album che è andato in giro con il titolo di Zbonix, e oggi invece porta il nome di Gregory Porter, già presente nelle classifiche discografiche di iTunes. Same. He knew he had to do his part, so none of his people would get caught up in the game. No, no, no. So I'd be young and free. Daddy made a way for me. He paved the road, so my burden is lighter. So much lighter. Soundcheck. Il suono della musica. Giovane cantante e chitarrista Thorsten Goetz, tedesco, che registra per la ACT in Put It Where You Want It, brano scritto da Joe Sample, compianto Joe Sample, pianista, leader dei Crusaders, scomparso un paio di settimane fa. Mi sembrava giusto ricordare questo campione del jazz soul. Thorsten Goetz si rifà a George Benson, lo avrete notato, e che dire, puoi fare un piccolo coccodrillo su Joe Sample? Guarda, credo che sia stata una delle personalità che ha fatto il crossover, nel senso pieno del termine, nella maniera di maggior qualità, sia con la musica dei Crusaders, band secondo me anzi sottovalutata per molti versi e molto spesso dimenticata tra i grandi che hanno attraversato il solo il jazz, cioè mettendo insieme della musica che avesse il sapore del pop e la qualità del jazz allo stesso tempo. E poi ottimo produttore, ricordavi prima a microfono spento le scoperte che lui ha fatto, e i musicisti, i grandi musicisti sono quelli che sanno fare il loro, ma sanno anche dare spazio e far crescere altri artisti come ha fatto lui. Infatti il grande successo di Joe Sample, il brano intitolato Street Life, fu portato proprio al successo con la voce di Randy Crawford e poi rivisitato anche da una giovanissima nei primi anni 90, Lala Hathaway, ma tutte cose che abbiamo già raccontato e ascoltato qui al Soundcheck di Radio 24. Ebbene, siamo arrivati ai saluti, Ernesto, io ti ringrazio tantissimo, è stato bellissimo, ti auguro di continuare a scrivere cose belle di tecnologia, di musica. Salutami Gino Castaldo, in bocca al lupo per il programma in radio, per i blog e tutto quello che fai. Ci sono, vuoi dare delle indicazioni per venire a visitare tutto quello che fai in rete? Guarda, la cosa più semplice è il sito repubblica.it, c'è un blog che si chiama MediaTrack, lì dentro si trova tutto, Webnote, il podcast, il programma radio, tutto quello che si combina online con Castaldo è lì. Grazie Ernesto Assante, grazie a Riccardo Bomarzi per la collaborazione alla parte tecnica. Noi ci risentiamo domani in due parti, come sempre la domenica alle 15:15, poi seconda parte dedicata al jazz a partire dalle 19:15. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it. parlavamo di Joe Sample, parlavamo dei Jazz Crusaders, eccoli qui dal vivo, una registrazione della fine degli anni 60. Il brano è It's Your Thing degli Allay Brothers, lo ricordi? Pezzo magnifico. Questa è la versione strumentale di Joe Sample con i suoi Jazz Crusaders. A tutti voi, buona serata a tutti e ci sentiamo domani sempre qui su Radio 24.